50 domande su Gesù. Chi fu Costantino? Flavio, Valerio, Aurelio, Costantino, nato nel 272 e morto nel 337 d.C., conosciuto come Costantino I o Costantino il Grande, è stato imperatore romano dall'anno 306 al 337. È passato alla storia come il primo imperatore cristiano. Era figlio di un ufficiale greco, Costanzo Cloro, che nell'anno 305 fu nominato da Augusto al posto di Galerio e di una donna, Elena, che sarebbe diventata santa. Alla morte di Costanzo Cloro nel 306, Costantino è stato acclamato imperatore dalle truppe locali in una difficile situazione politica aggravata dalle tensioni con l'antico imperatore Massimiano e suo figlio Massenzio. Costantino sconfisse prima Massimiano nel 310 e poi Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio il 28 ottobre del 312. Una tradizione afferma che Costantino, prima della battaglia, guardando il sole, a cui come pagano rendeva culto, vide una croce e ordinò che i suoi soldati ponessero sugli scudi il monogramma di Cristo, le due prime lettere del nome greco sovrapposte. Pur continuando a praticare riti pagani, da questa vittoria si mostrò favorevole ai cristiani. Con Licinio, imperatore in Oriente, promulgò il cosiddetto Editto di Milano, vedasi la domanda seguente, favorendo la libertà di culto. Più tardi i due imperatori si affrontarono e nell'anno 324 Costantino sconfisse Licinio e rimase l'unico imperatore. Costantino portò a compimento numerose riforme di tipo amministrativo, militare ed economico. Ma quelle più importanti riguardarono l'ambito politico-religioso, prime fra tutte quelle volte alla cristianizzazione dell'impero. Promosse l'instaurazione di strutture adeguate per conservare l'unità della Chiesa, anche come mezzo per preservare l'unità dello Stato e legittimare la sua configurazione monarchica, non escludendo altre motivazioni religiose di tipo personale. Oltre alle disposizioni amministrative ecclesiastiche, prese provvedimenti contro le eresie e gli scismi. Per difendere l'unità della Chiesa, lottò contro lo scisma causato dai donatisti nel Nord Africa e convocò il Concilio di Nicea. Si veda la domanda: che cosa successe nel Concilio di Nicea per risolvere la controversia trinitaria originata da Ario? Nel 330 portò la capitale dell'impero da Roma a Bisanzio, che chiamò Costantinopoli, il che comportò una rottura con la tradizione. Come accadeva frequentemente, fu battezzato soltanto poco prima di morire da Eusebio di Nicomedia, vescovo di tendenza ariana. Nonostante gli aspetti negativi del suo mandato, come per esempio il suo carattere capriccioso e violento, non si può negargli il merito di aver dato libertà alla Chiesa e favorito la sua unità. Non è invece storicamente certo che per ottenerlo Costantino decidesse, fra le altre cose, il numero dei libri che doveva avere la Bibbia. In questo lungo processo, che terminò molto più tardi, i quattro Vangeli erano già da molto tempo gli unici che la Chiesa riconosceva come veri. Gli altri Vangeli non furono soppressi da Costantino, giacché erano già stati respinti come eretici decine di anni prima.